Il 1 dicembre salirà sul palco del Locomotive Club il cantautore napoletano Newt, che è in collegamento telefonico con noi, a cui do il benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao Newt, buon pomeriggio. Ciao, ciao a tutti. Non te ne fa è il titolo del tuo ultimo lavoro. Vorrei partire un po' da qui chiedendoti di raccontarci di questo progetto e come è nato questo tuo nuovo album. Ma è un album che ho iniziato ad immaginare circa 8 anni fa, con delle canzoni che ho iniziato a scrivere durante il tour del mio terzo disco. Infatti le 2 canzoni che ci sono in italiano su 10 sono le prime canzoni nate per questo lavoro. Dopo un po' di tempo ho iniziato a collaborare col poeta Alessio Sollo e ho iniziato a scrivere tantissime canzoni in napoletano, le altre 8 che fanno parte dell'album le ho scritte con lui, e intanto mi sono accordato con Pierre Faccini, che ha aperto la sua etichetta Beat in Drum in Francia, cioè mi aveva già prodotto il mio secondo album, Il rumore della luce, per una collaborazione per un album insieme. Abbiamo iniziato quindi a unire le forze ed è un album collettivo, è un album che ha solo il mio nome in copertina, ma in realtà devo dividere i meriti con Alessio Sollo sui testi, degli arrangiamenti, i suoni, le scelte produttive con Pier Faccini, che ha prodotto sia artisticamente il disco che anche dal punto di vista esecutivo con la sua etichetta. E poi abbiamo inserito nell'album Simone Prattico alla batteria, Ilaria Graziano, che ha cantato con me tutto l'album, e Michele Signore, con il quale collaboro da un po' di tempo, che è il mandolinista, violinista della Nuova Compagnia di Canto Popolare. E in un pezzo c'è Fausta Vetere della Nuova Compagnia e Luca Russi come ospiti. Siamo in pochi ad aver suonato tutto l'album e ci ho lavorato per tanto tempo ed è per me un risultato artistico molto importante, nel senso che miravo da tanti anni a raggiungere un suono così internazionale. Grazie a Pierce ci sono riuscito. Riparto un po' da questo tuo suono internazionale all'interno di questo album. Ci hai anche detto che 8 di queste canzoni sono cantate in napoletano, hai ripreso anche un po' dalla poesia, insomma unisci un po' il cantautorato, la musica della tradizione. Ti chiedo come costruisci questo tuo stile e poi come emerge nella pratica anche nelle tue canzoni. Ma diciamo che è frutto di una ricerca che parte da tanto tempo. Ho cercato di fondere quelle che sono le mie passioni che mi hanno spinto ad iniziare a suonare quando ero 14enne. Mi piaceva il grunge, la musica americana, poi il folk inglese, il folk americano, i Beatles, il blues del Delta del Mississippi, il blues del Mali. Sono tutte esperienze che ho fatto in questi anni dal punto di vista di ascolti. Poi a un certo punto, qualche anno fa, mi sono reso conto di quanto sono importanti le radici in un musicista o in un artista in generale, e quindi ho iniziato questa ricerca sulla musica popolare, la canzone classica napoletana, iniziando a scrivere queste canzoni in collaborazione con Alessio Sollo, musicando le sue bellissime poesie. Mi è venuto naturale miscelare un po' quelle che sono i miei riferimenti che arrivano da lontano, appunto come il folk inglese, la musica africana e il blues, con quelle che sono le mie radici, e quindi con questi testi napoletano e con delle sonorità che ricordano la tradizione, come l'utilizzo del mandolino, mandoloncello e questi strumenti antichi, diciamo. Il 1 dicembre verrai ospitato sul palco del Locomotive Club, come dicevamo in apertura, e sarà una delle tappe del tuo tour che farai in full band, giusto? Ti chiedo di raccontarci un po' chi salirà sul palco insieme a te all'interno di questo tour. Sì, sono molto emozionato, soprattutto per la data di Bologna, perché sarà proprio il primo concerto in full band, quindi la prima volta che suoneremo queste canzoni tutti insieme su un palco davanti a qualcuno. Dividerò il palco con Marco Caligiuri alla batteria, che è il batterista del collettivo, la band di Alessio Sollo, ma suona da qualche anno anche con Enzo Gragnaniello. Poi ci sarà Valerio Mola al basso, Gianluca Capurro alla chitarra elettrica, Michele Signore della Nuova Compagnia di Canto Popolare, che appunto suona violino, mandolino, mandoloncello e viola. Alla voce insieme a me ci sarà Ilaria Graziano. Newt, io ti ringrazio, chiaramente ti auguro una buona fortuna per questo tuo tour e invito tutte e tutti ad esserci il 1 dicembre al Locomotive per la tua tappa bolognese. Grazie. Grazie di cuore, vi aspetto.